punto della situazione è abbastanza semplice per effetto della delibera della regione che ha imposto la zona rossa a Medicina, non era possibile uscire da Medicina, quindi i lavoratori di Medicina che lavoravano al di fuori del comune non potevano recarsi al lavoro. Ovviamente qui dipende, se alcuni lavoratori lavoravano in aziende chiuse e quindi hanno utilizzato la cassa, altri lavoratori che lavoravano in aziende che lavoravano, che non avevano una cassa, ovviamente le aziende difficilmente aprivano la cassa solo per un numero esiguo dei lavoratori e quindi sono rimasti scoperti non per colpa loro, non è che non volevano andare a lavorare, non potevano uscire dal comune. Per questi lavoratori le aziende o hanno messo ferie prendendolo dal monte ore dei lavoratori oppure non hanno ricevuto la retribuzione per quel periodo. Noi abbiamo chiesto già da tempo, già da allora, di riconoscere la malattia come è stato riconosciuto in altri casi di genere. C'è stato anche un rimpallo di responsabilità tra l'INPS e il governo, nel senso che l'INPS diceva che per riconoscere la malattia doveva esserci un provvedimento governativo. Beh sì, doveva esserci un provvedimento governativo, sì, perché la malattia deve essere riconosciuta sulla base di un certificato medico. Il medico dà la malattia solamente a condizione che il lavoratore era malato. Il lavoratore non era malato, il lavoratore era in casa, in quarantena, impossibilitato a uscire dal comune. Quindi da questo punto di vista è corretto l'interpretazione dell'INPS. Ci voleva, come è stato fatto in altri casi, un intervento legislativo dove autorizzasse l'INPS a pagare la malattia, anche perché l'INPS non è che decide lei, l'INPS si muove sulla base della legge vigente. È chiaro che il governo doveva fare un decreto specifico per questi casi. Invece la Camera dei Deputati ha scartato questo emendamento, nonostante ci siano, almeno queste sono state le dichiarazioni degli ultimi giorni, pressioni sia da parte del Movimento 5 Stelle che del PD. E voi definite inaccettabile quanto sta accadendo? Sì, definiamo inaccettabile per un motivo molto semplice, che di fronte al lockdown abbiamo trovato delle soluzioni per tutti, tranne che per questi lavoratori che, ripeto, non per colpa loro erano impossibilitati a recarsi al lavoro. E quindi da questo punto di vista succede una cosa molto semplice, cioè o sono rimasti senza retribuzione per quel periodo oppure hanno consumato le ferie che non possono più utilizzare per il periodo estivo. Questo è inaccettabile anche perché è una decisione presa sulla base di un lockdown deciso. È vero dalla regione, ma è anche vero che questa cosa ha permesso un contenimento di un focolaio Medicina che gli esperti dicevano che esisteva. È stato fatto sulla base di un provvedimento di salute pubblica. Quindi da questo punto di vista chi fa quei provvedimenti dovrebbe anche lo Stato, da questo punto di vista, garantire un minimo di copertura per quei lavoratori. Ecco, infatti adesso cosa chiedete voi? Noi chiediamo che nelle prossime discussioni si colmi questo ritardo e che si torni indietro rispetto a questa posizione inaccettabile che è avvenuta ieri.